Eccoci, ben trovate e ben trovati in anticipo. 21:48. Per gentile concessione dell'assenza di elettrodo. E 48 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati e sintonizzati sulle 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E già trilla e tinge di rosso la redazione della radio. Allo 0649 1750, 0649 1750. Come di consueto andiamo a ricordare i contatti della radio. Il numero sembra che lo conoscete. Ricordiamo anche il numero di SMS: 342 357 4357, 342 357 4357. Io nel frattempo che vai, poi magari diciamo, posso mangiare la pizza? Dipende dal gusto. È mezza vegana, diciamo quasi. Vabbè, allora. Perché è cicoria. Ok, okay. Povera cicoria. Ha consentito. Quindi ricordiamo il sito della radio, www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete e dovete rimanere aggiornati. Sito ricco di notizie, corrispondenze, di queste giornate intense di lotta. Sempre dal sito potete ascoltare la diretta cliccando appunto fatalità su Ascolta la diretta. Sito dove troverete tutte le corrispondenze, i podcast delle trasmissioni. E non per ultimo le coordinate su come sostenere questa radio libera dal 1977. Quindi potete contribuire a mantenere viva la radio cliccando su sottoscrivi. Una radio che vive grazie ai vostri contributi. e quindi potete partecipare al finanziamento della radio venendo negli studi della radio qui in via dei Volsci 56, oppure attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Noi cominciamo a scaldare la frequenza 87.9 con i Caius. vabbè, un po' di emozione dopo. Il silenzio è nel disco. Oppure non mi volevi dare il microfono per coprire il buco perché stavo masticando. Eh sì, era poco radiofonico. Okay. Però poi, vabbè, però ti si puoi poteva fare. Insomma. Beh, insomma, calcola pure che a quest'ora di solito va in onda elettrodo, quindi una bella masticazione del bolo. Sì, potrebbe essere più musicale che. Sì, vabbè. Sì, sì, sì. O peraltro elettrodo che forse più tardi ci chiamerà pure, perché stasera ha un concerto e magari ci disturberà con qualche con le parole, con dei rumori. Sì. E quindi ci siamo ascoltati la seconda traccia da Blues for the Red Sun, Green Machine. Uscito nel 1992 per Dali Records. Mentre già sotto va l'esplorazione spaziale di Paul Shane. E questa è la sua parte terza di Sign from Space. Buon ascolto. e ci abbiamo al telefono Vincenzo De Misantropus. Buonasera Vincenzo. Buonasera a te Dario, come stai? Tutto bene, tutto bene. Che si dice a Latina? A Latina è una serata abbastanza calda, anche se c'è un po' di venticello, quindi si sta benissimo. Noi stavamo facendo le nostre prove settimanali e niente di nuovo, diciamo, però si sta bene. Insomma, ci abbiamo qui Misantropus al telefono, perché? Eccomi, sono, ciao. Niente di nuovo, forse no, qualcosa di nuovo c'è invece. Diciamo che sì, in realtà sì, praticamente dopo 10 anni dall'ultimo nostro disco ne è uscito un altro, il terzo, proprio in questi giorni, quindi in realtà sì, c'è questa novità in casa Misantropus. Insomma, quindi dopo 10 anni abbiamo una novità, a parte l'uscita del disco nuovo, perché ci abbiamo la batteria e il mitico Andrea. Sì, sì, sì, poi, oddio, già è da un po', praticamente sono 3 anni, da poco, ad aprile, sono 3 anni che suoniamo con Andrea, che è subentrato al nostro batterista, diciamo, storico Massimiliano Bergo, e Andrea Pozza, già, ecco, sono 3 anni che suona con noi e ci aiuta a portare avanti questo progetto di vitale importanza per noi. E quindi è la prima uscita discografica con Andrea la batteria? Sì, praticamente la prima uscita ufficiale di Andrea con i Misantropus, esatto, esattamente. Questa è una cosa molto bella per noi, che abbiamo trovato una persona che si è amalgamata in maniera ottimale con noi due, i fratelli Sanniti, che siamo abbastanza diciamo esigenti da quel punto di vista, perché poi per portare avanti, diciamo, un progetto diciamo così underground come Misantropus, serviva una persona con un'attitudine come la nostra, insomma, che si dedicasse al progetto anima e core. Bene, bene. E ricordiamo, Andrea già la batteria con i Godbat. Sì, lui ha quest'altro gruppo con cui suona i Godbat, con cui suona un rock stoner un po' diverso da quello che facciamo noi. Noi siamo più metallari come attitudine, nel senso sonora, mentre i Godbat sono un po' meno più moderni, nel senso che hanno delle sonorità più diciamo così contemporanee rispetto a quello che sono in Misantropus. Niente, però si è creata anche una bella diciamo così fratellanza tra loro e noi, siamo diventati amici e questa è una cosa bella. Poi abbiamo creato un ponte Latina Frosinone, a dispetto lo dico simpaticamente delle rivalità campanilistiche. Ecco, bravo, bravissimo, hai detto bene. Siamo abbracciati, abbiamo creato questo ponte, insomma. Sono curioso di come Andrea possa aver portato le sue energie all'interno dei Misantropus. Ricordiamoli con Bergo alla batteria, già senza benza, con il suo stile molto classico che ben si amalgamava con il vostro sound. Che cosa ha portato Andrea? Ha irrozzito un po' Andrea, rispetto a Massimiliano, ha un approccio sicuramente più istintivo, meno cervellotico, più sanguigno. Non ho capito, scusa. Più sanguigno, bravo, sì. Diciamo che Massimiliano, anche per un fatto anagrafico, è una persona che ha un approccio diverso, diciamo più accademico alla batteria, nel senso che è uno che comunque tutt'oggi studia lo strumento e si applica in maniera, diciamo, più tecnica, mentre invece Andrea ha un approccio più spontaneo, più istintivo, appunto, e forse anche un po' più, diciamo così, animalesco nel senso positivo del termine. E niente, ha creato quella quella simbiosi che serviva, non perché con Massimiliano questa simbiosi si fosse spezzata, più che altro le sale poi hanno preso una via diversa, insomma, ecco, solo per quello. No, una piccola curiosità che proprio distrugge tutta l'aura mistica dei Misanthropus: Andrea è uno dei più grandi conoscitori di vini al cartoccio che io abbia mai conosciuto, veramente vedi, questa mi mancava, io non lo sapevo. È una passione che condividiamo, quella dei vini. Lui mi ha fatto conoscere dei vini al cartoccio, niente male, no? Ottimo. Ma questa è una news tipo le etichette di banane della collezione che, malgrado la fratellanza, malgrado la fratellanza, si scoprono poi dei lati della personalità. Ascolta, è come una coppia che poi negli anni si riconosce sempre meglio. Così, tanto per dirla, il titolo del disco. Allora, il titolo del disco in realtà, diciamo, non c'è, nel senso che noi abbiamo questa caratteristica, ormai è diventata una specie di marchio di fabbrica. Perfetto. Che potrebbe anche dar fastidio. Era quasi fatta apposta la domanda. Non ho capito, scusa. Era quasi fatta apposta, eh. Ah, ecco, sì, diciamo che il titolo è omonimo, nel senso che non abbiamo un titolo specifico, anche se per gli amici questo terzo disco può essere chiamato anche Noè, che poi è il pezzo che apre il disco, il CD, insomma, perché in realtà trattasi di un disco a concetto, un concept sulla figura, diciamo, di Noè, una figura archetipale che prescinde dal significato un po' biblico che è legato al nome di questa figura, per abbracciare un pochino dei significati un po' più vasti. Quindi ci hai messo curiosità e ti dobbiamo invitare. Sicuramente dobbiamo approfondire questo lato punto. Volentieri, se c'è qualcuno che interessa tra gli ascoltatori, molto volentieri. Spero di non essere noioso, insomma. No, assolutamente. E quindi ci sarà anche la presentazione del disco a Latina questo sabato, ci dicevi, a microfoni spenti. Quindi se volete informarvi sui siti specializzati troverete sicuramente i dettagli e le coordinate. Esatto. E quindi vi invitiamo a informarvi e farvi una passeggiata a Latina, perché ci saranno i Misanthropus in questa nuova presentano loro terzo disco anonimo come al solito, ma che è importante ascoltare per capire poi le evoluzioni dopo tanti anni, le paraboli evolutive appunto del vostro suono. Sì, io vi ringrazio, insomma, per la possibilità che ci avete dato di far conoscere, insomma, gli ascoltatori di questo nuovo disco. Siete sempre molto gentili, ecco. Ma grazie a voi, insomma, di portare le energie giuste alla trasmissione e alla radio. Grazie a voi. E soprattutto, dai, ci risentiamo, così poi lo faremo ascoltare pure agli ascoltatori in diretta con i vostri commenti, ovviamente. Questo molto volentieri, quando volete. Adesso ci organizziamo poi col Fantasma e vedremo quale sarà la data più adatta affinché con voi, insomma, possiate venire qui a Roma. Va bene? Grazie tanto. Ciao, sì, Vincenzo. Vi ringrazio nuovamente anche a nome degli altri ragazzi e niente, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento del programma. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Vincenzo e dai ragazzi del Misanthropus. Bene, ciao Vincenzo, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Grazie, un abbraccio anche a voi, ciao. E noi, dopo l'esplorazione spaziale dei Farflung, ci andiamo ad ascoltare proprio i Misanthropus con Rain. Yeah. Ok, ci siamo, 22:40 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Un'altra corrispondenza, un'altra chiamata, perché domani, intanto ci sei, Mimmo, in linea? Sì, ciao a tutti. Perfetto. A tutte. Allora, diciamo, domani 27 di giugno scarcerando il Centro Sociale Occupato Forte Prenestino presentano Una Verità Criminale, serata dedicata a Giuseppe Uva. Ore 21 cena evasiva, ore 22 intervento di Giancarlo Castelli, giornalista e videomaker, la proiezione alle 22:30 del documentario Nei secoli fedele di Adriano Chiarelli sul caso di Giuseppe Uva, regia di Francesco Menghini, un documentario dello scorso anno, 70 minuti, al termine di DM Set Acustico live dal disco Gabbia di Vetro. Quindi nel novero delle iniziative di Scarceranda, che normalmente andiamo a fare comunque tutti i mercoledì, normalmente di fine mese, l'ultimo mercoledì del mese, in questa fattispecie di giugno sarà di giovedì per vari motivi, e quindi domani questa iniziativa appunto dedicata a Giuseppe Uva, a cui avete voluto partecipare insomma fortemente, e ve ne siamo grati. Cosa ci dici, Mimmo? Intanto, cosa state facendo adesso? Stavamo provando proprio per domani sera. Appunto, sì. Benissimo. Stavamo facendo le prove. Ok. Sì, sicuramente è un grande piacere partecipare. Abbiamo potuto partecipare anche perché il nostro disco, poi Gabbia di Vetro, racconta tramite delle novelle delle storie analoghe, purtroppo. E sarebbe più piaciuto magari raccontare le altre storie, diciamo, ma purtroppo l'occhio è quello là, insomma. È rivolto al momento nostro e penso che diciamo, no, dicevi racconta delle novelle delle novelle molto inerenti al caso Uva e purtroppo a tanti altri casi analoghi, e diciamo sono delle novelle, un occhio sulla nostra società, su tutto quello ciò che vediamo succedere al nostro fianco, insomma. E quindi ci fa molto piacere dare il nostro piccolo contributo umile, diciamo, raccontando quelle storie. E soprattutto un occhio che vive la periferia, che vive comunque il sobborgo, non vive certo le patinate vetrine del centro, dove insomma le luccicanti vetrine del centro, dei centri commerciali. Dove appunto non succedono, o si fa finta che queste cose non succedano, insomma. No, assolutamente. Infatti il nostro occhio è rivolto più, diciamo, una realtà, se vogliamo chiamarla al basso, ma non so neanche se poi è il termine giusto, però sicuramente siamo lontani dalle vetrine. È molto inerente, diciamo, a tutto ciò che diciamo, perché poi quello che viviamo, quello che guardiamo, insomma. Benissimo. Ascolta, allora niente, possiamo dire appunto che ci vediamo domani sera, voi sarete senz'altro anche prima lì al Forte, quindi ceneremo tutti insieme. Non abbiamo stasera il menù che normalmente diciamo riusciamo a elaborare già nelle ore precedenti o nei giorni precedenti alla cena di Scarcerata. Normalmente è molto interessante anche. Magari recuperiamo nell'arco della trasmissione, sguinzagliamo i nostri informatori. Si potrebbe trovare qual è il menù della serata. Va bene, allora niente, appunto stasera abbiamo sentito voi, domani durante Visionari peraltro ci sarà la trasmissione sul cinema della Radio Onda Rossa alle 14 all'incirca, sì, 14, dopo il GR comunque, sì, alle 14. Ci sarà pure l'intervista con il giornalista appunto che ci illustrerà poi a tutti quanti quali sono le ultime novità appunto su questa storia dell'omicidio Uva, e che praticamente poi in realtà, così anticipando quello che già comunque è di pubblico dominio e che domani sera andremo a parlare appunto di tutta questa vicenda in cui appunto sto ragazzo, sto uomo, cioè 43 anni, è stato ammazzato in quel di Varese, molto probabilmente, insomma, comunque nell'iter del suo percorso dalla strada alla caserma dei carabinieri, è arrivato all'ospedale vivo, ma diciamo in condizioni abbastanza preoccupanti. Ecco, un po' questa è la vicenda. In tutta questa storia è stata inquisita la sorella, che comunque sta cercando di, è un po' così la cifra con cui leggiamo un po', cioè ci accollano le colpe di tutto, ecco, pure delle infamate che fanno nelle caserme. E purtroppo succede spesso che, oltre, diciamo, alla barbarie del fatto, poi continuano. C'è la biffa, queste... c'è proprio la persecuzione, poi i familiari che rimangono loro nella realtà che viviamo, quindi è proprio, è una cosa abbastanza singolare, diciamo. Va bene, ok Mimmo, allora vi lascio le vostre prove e ci vediamo e sentiamo domani sera. Vi ringrazio, a domani. Ciao, domani. Bella, ciao. E noi ce l'ascoltiamo DDM, Gabbia di vetro. Dopo i DDM ci andiamo ad ascoltare un gruppo, loro sono i Tetuan dall'Italia, con un progetto intitolato Quain o qualcosa del genere. È un progetto sperimentale, noise, qualcosa del genere, ritmi allucinati post rock, e disco totalmente scaricabile sulla loro pagina di Bandcamp. E ce li ascoltiamo insieme da capo. Questo è il pezzo di apertura, Rangoon. Questo era il pezzo di apertura del disco intitolato Kane, dei Tetuan, produzione italiana. Appunto stavamo discutendo qui col professore. Che ci piacciono. Che ci piacciono. Innanzitutto ci piacciono, che hanno un suono moderno. Sono decisamente moderno. Decisamente moderno. Anche se dire quello che è moderno o meno è un punto di vista, perché sì, per qualcuno potrebbe essere moderno. Lo stoner rock è relativissimo, è un termine relativissimo. però molte volte si adatta bene, cioè calza bene, e qui calza in maniera eccellente perché noi attribuiamo a moderno una serie di cose evocative che mi sembra che in questi suoni, appunto, che poi vanno un po' già dall'incipit, vanno un po' a rubare diciamo suggestioni da questo mondo globale, da questo mondo assolutamente interconnesso al suo interno. E stavamo discutendo prima, mentre ascoltavamo il pezzo, proprio riusciamo a scovare questi gruppi che magari ne ricordavamo un po' di anni fa si andava magari delle disfunzioni, tanto non c'è più disfunzioni. E perlomeno io andavo il sabato a disfunzioni, mi facevo la passeggiata, mi sfogliavo tutti i cataloghi, non c'avevo una lira, certo. E arrivavo davanti alla bacheca dei demo e mi compravo il demo, ovviamente a scatola chiusa, certo. Quindi andavi a cercare la copertina, quello che ti ispirava di più, e andavi a casa e magari scoprivi di aver buttato, esatto. le 5.000 lire, sì, sì, sì. Però insomma una volta c'erano anche, per esempio negli Stati Uniti, che erano più furbetti, le case discografiche, i produttori anche diciamo tra virgolette piccoli, la Ellacats per esempio, piuttosto che come si chiamava quella di Mike Fat di NoFX, la Fat Record mi pare, diciamo pubblicavano di tanto in tanto dei sampler, esatto, dove c'avevi magari 40 tracce, 50 tracce compresse dentro un CD che o ti regalavano o addirittura andavi a comprare a pochi dollari, e poi in base a quello trovavi merda, ma trovavi pure magari il gruppetto interessante, ecco. E invece adesso nell'era iperveloce di questi tempi tutto è accorciato pochi click. Eh sì, magari ti va a cercare le recensioni sui siti specializzati o meno, da recensione a recensione, link su link, zapping, linkaggi vari, e niente, siamo arrivati. È un lavoro, c'è un gente lavoro. Espertissima che si mette su YouTube e scarica delle cose. No, chi ha fa? No, perché dobbiamo rifare la bacheca. La bacheca. No, io veramente faccio l'orto attualmente. che è meno stress, no? Assolutamente sì, insomma. Più lavoro, magari, ma. Vabbè, poi niente, mentre aspettiamo che il professore qui ci porti a Radio Onda Rossa i frutti della sua terra, perché ce li racconta sempre. Li porta a tutti. Perché ogni tanto la tiri fuori come svisata fricca, no? Cioè per andare a riparare, per mettere la ciliegia. Perché comunque l'altro anno ho portato le albicocche ai vegani. Ecco. Un po' bagate, quindi era proprio super, quindi dovevano pure eliminare il vermetto. Un po' carnivore. Però insomma quest'anno l'albero di albicocche, cioè c'è un sempre, vabbè, noi ogni tanto ultimamente facciamo questi excursus così. Quest'anno il periodo non ci sono albicocche, le albicocche costano moltissimo, almeno nei dintorni di Roma, perché nel periodo della fioritura delle albicocche c'è stata una settimana di intenso freddo, che è capitata proprio intorno alla metà di marzo, se non vado errato, che è il periodo proprio della fioritura delle albicocche. Il freddo intenso praticamente uccide o comunque relega gli insetti impollinatori a starsene a chiuso, non escono, e gli alberi di albicocche non si sono impollinati, quindi quest'anno avete mangiato pochissime albicocche perché non c'erano. Io l'albicocco che l'altro anno ha fatto un sacco di frutti, quest'anno è stato avidissimo e non ho mangiato nemmeno una. E vabbè, dispiacendoci di ciò, quindi se avete albicocche portatele qui alla radio, noi le apprezzeremo e le decanteremo. No, il mug, noi preferiamo il mug. No, il mug anche rotto, anche difettoso, ve lo ritrovate lì, ci appoggiate le chiavi sopra, portatecelo qui, insomma. Se ci mettete il cellulare sopra perché non sapete appoggiare, portate sto mug in radio. Però basta, perché sono diverse volte che lo ricordiamo. Siete poco reattivi. Comunque, da questa scoperta che sono i Tetuan, quindi fighi, ascolteremo. Ce li riascolteremo. Suoni moderni. Andiamo nel passato, ovviamente. E ci ascoltiamo il primo disco di un gruppo che con difficoltà, questo primo disco è stato registrato, non si trovava il modo di registrare quei suoni, di catturare lo spirito di questo gruppo. Questo gruppo che no, inizialmente non aveva nome, mi pare si facessero chiamare la X Band, proprio perché loro andavano a suonare in giro, erano un collettivo di musicisti e suonavano, sperimentavano e suonavano, non avevano in mente di fare successo, e loro suonavano, sperimentavano. E nel 1970 l'unico modo di registrare, di cercare di catturare lo spirito di questo gruppo è stato registrando dal vivo in studio tutti i loro pezzi. Questo è il primo disco degli Hawkwind, ce l'andiamo ad ascoltare, apriva così. with everything but the sails. I worship the strong, power of song, the lifestyle demanded I choose. Accepted the quest, climbed to the crest, and from the top I saw you. I thought that I had a license to fly. Shook his hand and I looked in his eye. To my dismay, I was betrayed, and my fortunes have turned into lies. Of age as a tool, but I wouldn't trade one single day because of the storm I found you. Adrift where the summer light beams, the morning dawns, the masted stand strong, and the sails are spun from our dreams. Ooh, the sails are spun from our dreams. E lui era la voce inconfondibile di Waino, già l'abbiamo sentito più volte con Senvius e Obsessed. Questo è del suo disco solista Adrift, Alla deriva. I don't care, maybe I just don't care. Visto che siamo in tema di suoni caldi, intimi, le corde dell'anima si sono allineate. Non possiamo che continuare con queste emozioni, visto che l'anima si è scaldata. I go where I want, Lord, I do just what I please. Mama called the doctor, said a pretty little mind. E il loro nome si ispira alla terra calda. Mama called the doctor, said a pretty little mind. Loro sono i Sienna Root da Different Realities. Ci ascoltiamo Bairaghi. Siena Ruth. E questo dal loro Different Realities dalla Svezia. Ancora una volta i suoni caldi dal freddo nord. E noi ci facciamo un bel salto e saltiamo tutto l'Atlantico. Ed atterriamo a Washington. Da un'uscita del 2005, Feathers. Ci tuffiamo nel paradiso Heaven. Loro sono i Dead Meadow. quindi Dead Mido. E Dead Mido usciti, stavamo dicendo adesso, microfoni spenti, su un'etichetta, il primo disco, il primo disco che dovrei avere, non so se il primo, forse il secondo, cioè, perché mi sembra Matador, ma te mi sembravi ostile. Sono usciti poi per la Matador, ma il primo disco, primissimo, primo disco dei Dead Mido, uscito su un'etichetta di un certo Joe Lally. Ah. Su Tolotta Records. Ah, ah, vedi? Quindi... No, non lo sapevo. Vabbè, Washington, insomma, poi alla fine. No, vedi. Accidenti. No, scoprendo queste informazioni, analizzando. Sì, no, io... ma per dire, cioè, si incontrano poi. Tutto sommato, appunto, noi abbiamo questa visione degli Stati Uniti come di questo luogo irraggiungibile, mitico, in cui appunto c'è una scena enorme. In realtà non è, andando poi ad approfondire, non è così, cioè in realtà c'è molta provincia poi, tutto sommato, anche nella capitale, nel luogo dell'impero, perché si trovano degli incroci, degli intrecci. Pete Steele, appunto, che sta nell'Orchestra del Deserto e negli Scream, e è voce di due gruppi che fanno due cose completamente differenti, no, a prescindere dalla Giolelli, che magari ama, cioè, va a produrre Dead Mido, insomma. No, poi a prescindere dalla vastità delle lande, ci si va sempre a connettere per attinenze di spirito. Sì, non di genere, esatto. È un po' poi quello invece che è lo spirito di 25 O'Clock, molte volte. Certo. Quindi ci sentiamo meno soli quando incontriamo altri scemi come noi. E appunto proprio con lo spirito che è quello di 25 O'Clock, dal calore, salutiamo pure Joe e Antonia, dato che li abbiamo citati tante volte fossero all'ascolto. Certo, un abbraccione e un saluto a chi ci ascolta dall'Inghilterra. Bene, vedi. Ciao Sandor, ciao Elena. E sto pianeta è una sorta di centocelle, insomma, del Pigneto. Sì, stiamo lì, insomma. E ritorniamo dall'altra sponda dell'Atlantico, ritorniamo in Norvegia, quindi sempre in Scandinavia. Dal calore dei Dead Mido ci tuffiamo nel freddo degli Ulver, gruppo che con il primo disco uscito nei primi anni 90 ha fatto parte di questa nuova ondata del black metal, però subito da giovanissimi con il loro secondo disco, che è l'impronunciabile Kveldsanger, uscito nel 1996, se ne uscirono con questo concept folk, interamente folk, abbandonato tutte le sonorità metal, e ce lo andiamo ad ascoltare. Questa è la nona traccia, l'impronunciabile, ci provo sempre, Kled It Nattens Farget. Ma no, sei bravo, io avrei ammasticato tutto proprio. Che tradotto più o meno dovrebbe essere vestito dei colori della notte. Ci andiamo ad ascoltare la freddissima nona traccia. Loro sono gli Ulver. E loro sono i Grand Magus dal disco Monument del 2003, uscito su Rise Above Records. Ci siamo ascoltati la prima traccia, sempre impronunciabile, sempre svedese, sempre scandinavo, Ulvaskal. E noi vi ricordiamo l'appuntamento del prossimo 3 luglio al Forte Prenestino con il concerto degli Atlantics, le leggende del surf dell'Australia. Apriranno il concerto i Magneti e i Romanez. E dalle 19:30 aperitivo surf a cura di Lusiel. Dopo i concerti di G7, tutti i frutti Apocalypse a cura di Murder Farts e Lubna Barracuda Bella. G8 Genova 2001, non è finita, libertà per Alberto e Marina. E quindi il prossimo mercoledì 3 luglio al Forte Prenestino, tutti quanti, vi invitiamo a venire con camicie hawaiane e collane di fiori. E noi, visto che con i Grand Magus abbiamo cambiato un po' registro, visto che i suoni si sono fatti un po' più pesanti, continuiamo questo ping pong tra la Scandinava e gli Stati Uniti. Ci andiamo ad ascoltare nuovamente una formazione che abbiamo ascoltato tempo fa. Loro sono i Nacht Mistium, dal disco del 2008 Assassin's Black Metal, parte prima. Questa è la terza traccia, Ghost of Grace. We'll be right back. 23:42 in questo momento, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza. Questa è 25 O'Clock. (06) 49 1750 se siete all'ascolto. E ricordiamo i contatti della trasmissione. Quindi scriveteci all'email 25oclock@ondarossa.info oppure fantasma@ondarossa.info. Per le vostre proposte sonore, umane, disumane. E noi continuiamo l'esplorazione di questa sera. Sono solo due, loro sono i Dark Castle, chitarra e batteria. Ce li ascoltiamo dal primo disco, Spirited Migration, del 2009. Ci ascoltiamo il pezzo di apertura, Awake in Sleep. 18. Sì, buonasera, sono Bigiogero. Posso avere un altro litigio qui a caserma di via Sassi all'arma dei carabinieri? Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo. Ma in caserma? Sì. Ho capito. Vabbè, adesso lo mando, Grazie. Salve, salve. Giovedì 27 giugno 2013 Scarceranda, Radio Onda Rossa e CSOA Forte Prenestino presentano Una verità criminale. Serata dedicata a Giuseppe Uva, massacrato in una caserma dei carabinieri il 14 giugno 2008 a Varese. Invece di indagare sulla sua morte avvenuta a poche ore dall'arresto, lo Stato incrimina la sorella e chi ha cercato di far luce su questo drammatico episodio. Ore 21, cena evasiva. Ore 22, intervento di Giancarlo Castelli, giornalista e videomaker. Ore 22:30, proiezione di Nei secoli fedele, documentario di Adriano Chiarelli sul caso di Giuseppe Uva. Giovedì 27 giugno, CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Centocelle. Il carcere, vieni a cena e dacci una mano a sostenere Scarceranda. L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Cena Scarceranda, eccezionalmente per questo mese di giovedì. Perché il carcere nuoce gravemente alla salute. Salute. E un'altra storiaccia di repressione dallo spazio sociale ex 51. Ieri alcuni ragazzi, mentre stavano affiggendo manifesti per pubblicizzare un'iniziativa organizzata per il quartiere, sono stati intimiditi da una volante che poi, con l'aiuto di altre, li ha tratti in arresto. L'iniziativa si inserisce nelle attività che, da quando nel dicembre 2012 è stata occupata l'ex clinica di Valle Fiorita, animano il quartiere. Valle Fiorita non è solo un'occupazione abitativa, ma un luogo liberato nel quartiere, dove sono stati costruiti laboratori, e viene portato avanti un progetto di radio online, e che nella giornata del 25 aprile è stata aperta al territorio e vissuta tanto dagli occupanti quanto da chi abita nella zona. Se da un lato queste attività incontrano il consenso e la partecipazione del quartiere, dall'altro si accompagnano ad una crescente attenzione da parte del commissariato di zona, attenzione che si è manifestata con minacce ed intimidazioni sino ad arrivare agli arresti di ieri sera. Rifiutiamo le accuse che sono state mosse nei confronti dei ragazzi arrestati e di quanti li hanno appoggiati. Non è avvenuto nessun tentativo di linciaggio né aggressioni nei confronti degli agenti. Con queste descrizioni falsate si vuole omettere l'atteggiamento repressivo adottato nei confronti di chi quotidianamente lavora per costruire spazi liberati nei territori. Ed in questa ottica l'affissione come atto politico viene repressa. Questa mattina si è svolta la prima udienza del processo. Gli arresti sono stati confermati a piede libero. A ciascuno dei quattro ragazzi è stato imposto l'obbligo di firma e da luglio si svolgerà la seconda udienza. Chiediamo a quanti, ricoprendo un ruolo istituzionale, detengono una responsabilità sull'accaduto di ieri, di prendere parola contro questi atti di repressione, mostrando esplicitamente una discontinuità con la gestione usuale di queste situazioni. Gestione contro la quale si sono più volte espressi in campagne elettorali. Invitiamo chiunque domani alle 17 a via di Torre Vecchia 156 per darci una mano, per darci una prima occasione di confronto e presa di parola pubblica. Continuiamo a lottare. Quindi l'appuntamento allo spazio sociale ex 51, Valle Rifiorita occupata. Yeah. E invece andando avanti sulle iniziative che domani ci saranno, perché domani è una giornata piena, già preventivata, perché domani 27 giugno si celebrerà la prima udienza del processo per il 15 ottobre 2011, processo di cui troviamo un manifesto esplicativo proprio sul sito della radio. 15 ottobre 2011, chi devasta cosa? Solidarietà, che è una domanda retorica che più volte ci siamo posti proprio riguardo al reato di devastazione e saccheggio, già affibbiato, attribuito a Genova 2001, come in altre occasioni, diciamo, di protesta, o succede pure appunto per ai margini degli incidenti che ci possono stare persino intorno alle partite di calcio. Ecco, chi devasta cosa? Domanda retorica, ovviamente, a cui non potete vedere appunto l'illustrazione che c'è sul manifesto, ma potete farlo andando sul sito della radio, in cui appunto già nell'illustrazione c'è una risposta implicita. Solidarietà alle processati e processate. Piazzale Clodio, 27 giugno 2013 alle 9, quindi domattina a Piazzale Clodio, i compagni e le compagne si danno appuntamento domattina, sì, praticamente sì, domattina, mancano 3 minuti alla mezzanotte. Sostieni le spese legali effettuando un bonifico sul conto corrente bancario intestato a cooperativa culturale Laboratorio 2001. Il codice IBAN è lunghissimo, vi invitiamo, c'è uno spot tra l'altro che gira, vi invitiamo di andare sul sito della radio a vederlo. E sempre nella giornata di domani, quindi alle 9 tutti a Piazzale Clodio, alle 17 invece assemblea all'Università La Sapienza a Roma, proprio riguardo a quello che sarà l'esito, diciamo, della prima udienza e sul da farsi poi per sostenere ancora i compagni e le compagne accusate di devastazione e saccheggio per il 15 ottobre 2011. E fra i tanti e le tante, quando è mezzanotte 02 minuti primi, salutiamo la capisciona, tanto che non lo facciamo almeno per radio, Dai, mettiamo qualche dischetto ancora a 25 o'clock. Spendiamo quattro chiacchiere. Eh sì, perché noi non ce le prepariamo le trasmissioni, No. Non ne siamo capaci. Non ne saremmo nemmeno capaci. Ci si arrabatta. Si va a ruota libera. Si va antuto. Che sarebbe poi una romanizzazione di intuito. Bada, bada, bada, bada, qui Jar Fantasma chiede Kama Again. E noi lo ricordiamo, e fa caldo, è vero, sì, no, anzi, manco fa caldo, si sta bene in giro, però. E dell'iPod, no, ascoltate Radio Onda Rossa, 0649175050. Chi va dicendo in giro? Chi va dicendo in giro? Mio lavoro! Banda Batoxi! Banda Baciochi, quasi indipendente ancora. Fantasma trilla, lui l'abbiamo visto da capo. Stavo a consumare, lo famo un ultimo Kama Again. Chi va dicendo in giro? Che odio il mio lavoro. Io lo odio, Come on! Chi va folks. One, two, one, two. Uno, due, uno, due. Two things. One, two, two. First thing, we're going to record this for a live CD release. So, if you're going to sing, if you're going to sing along, sing in tune. Subhumans. Sì, perché qui non parliamo di palchi. Dove suona della gente. Ma dei subhumans. Svelti, svelti. E lui che suona si chiama proprio The Animals. No, senza S, The Animal. Get ready da capo. Anti-Nowhere League. Punk 77, un pochino dopo, ma proprio qualche mesetto. Get ready. Meno male che avete riparato il condizionatore. Anzi, pulite i filtri, eh. Grazie compagne e compagni di Radio Onda Rossa. Perché a 25 o'clock si poga dietro il mixer. E il sudore con la birra, il sudore della birra fa un brutto effetto. Get ready for this infestation, population, boom. Get ready for the beast tonight, yeah. Get ready with the beast tonight. Get ready for this holocaust and kiss your ass goodbye. Un bel salto di tanti anni. E ce ne andiamo per l'esattezza al forte prenestino di qualche mese fa. Clockwork Psycho dalla Slovenia. Today I met the maker. E dopo le vitamine, we met in the springtime. Un po' di proteina. Bold, the pastures are green and the meadows were gold. E loro le ballate le sanno fare meglio di chiunque altro. As summer grew on, Mike Ness. Waves now have withered and gone. E la distorsione sociale. Social distortion, avanzi de galera, alone and forsaken, soli e abbandonati. She may have forsaken some other life. perché nessun avanzo di galera debba sentirsi solo e abbandonato. Per portare la solidarietà a Marina Cugnaschi e Alberto Funaro, per sostenere ed aiutare Jimmy, sul sito della radio troverete i contatti giusti e necessari per comunicare con loro, perché nessuno si senta solo e abbandonato. Altri avanzi di galera, eh? Ma non mi dite che il 25 dicembre o quando è più o meno che fanno sta roba a Capodanno, quando è... non ve lo vedete per la 76esima volta, perché c'era un manifesto con una A cerchiata tanti anni fa che girava così. In vari centri sociali oppure nei mercatini, in cui c'era scritto sotto al faccione di Dan Aykroyd e John Belushi con il cappellone e gli occhiali scuri: i rivoluzionari non votano, o qualcosa del genere. Don't try to understand them, just rope, throw and brand them. Soon we'll be living high and wild. My heart's calculating, my true love will be waiting. Be waiting at the end. E loro erano in missione per conto della Pinguina. Hit 'em up, hit 'em up, move 'em, move 'em on. Hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in rawhide. E dalle vitamine passiamo all'etile. Si fa tutto più fumoso. E quel che sono le sigarette e l'alcol. Diventano una parte dell'ambiente, le luci sono soffuse qua a Radio Onda Rossa. Enter the Aegis. È scritto in uno slang. Donald wears ears trouser. Dove stanno i tuoi pantaloni? Voi siete cercato, eh? slippery in the hall. I was afraid the time I'd fall, cause I was there wearing trousers. Let the wind blow high, let the wind blow low, through the kilt of my sweet I go. All the lasses shout hello, Donald, where's your trousers? Let the wind blow high, let the wind blow low, through the streets of my kilt I go. All the lasses shout hello, Donald, where's your trousers? E mo non dite che è riuscito a tenere le zampette ferme, to wear the kilt is my delight. I'm never wrong cause I'm always right. The Highlanders would get a fright if they saw me wearing trousers. Let the wind blow high, let the wind blow low, through the streets of my kilt I go. All the lasses shout hello, Donald, where's your trousers? In my car, went downtown to Kenny's bar. 15 scotches, 5 cigars, and I left without my trousers. Let the wind blow high, let the wind blow low, through the streets of my kilt I go. All the lasses shout hello, Donald, where's your trousers? Let the wind blow high, let the wind blow low, through the streets of my kilt I go. Donald, where's your trousers? Excuse me, sir, you on the bicycle, would you pull over to the side of the road, please? Have you had anything to drink tonight, sir? The window high, let the window low, let the window high. And what happened to your pants? Donald, where's your trousers? Let the window high, let the window low, through the streets of my kilt I go. All the lasses shout hello. E dall'Irlanda alla costa pacifica, in quel di terra di California, ma sti irlandesi sono arrivati dappertutto. Live. Even Davey Watson. Black Friday Rule. Flogging Mollies. Bella Chiara, bella Pipino. Anche se forse non è bene associare questi due nomi, eh. I want to believe in myself once again. So I dream of a man whose hopes never end. To kiss with a girl who's as ugly as me. I give you my heart. I must be the white Allora, sti signori suonano e bevono birra in quel della California. Suonavano, visto che è un concerto registrato più di una quindicina di anni fa. Però ecco, Radio Onda Rossa è la radio, come sapete, che non campa d'aria, non fa pubblicità, vive grazie al sostegno di chi la fa e di chi la sostiene, di chi ne condivide il progetto editoriale. Fermo restando, cioè, i cannoli fa buoni. Che io dico? No, ma cioè. Sì, vabbè, la Scozia, l'Irlanda. Situazioni esotiche, sì, no, si viaggia con la mente, però insomma, come si divertono, tutte queste cose, queste atmosfere, queste emozioni che andiamo a ripercorrere con i suoni, però pure qua a Radio Onda Rossa ci difendiamo bene. Abbiamo dei bei momenti, viviamo dei bei momenti. Fatevi riempire in cannolo siciliano con la ricotta fresca e beh. Già, finisce il pezzo, lo dimo dopo, come no. E ritorniamo quindi dalla California. A chi è Apolide proprio per scelta e girava con un pulmino rosso e nero. È il momento in cui trasmetti per radio e ti piace avere un bel ritorno in cuffia. Death Loves Youth. E noi non abbiamo nessuna nostalgia dell'essere pischelli. Perché pischelli siamo benché. From this world, get another mouth. With one word here and another there, lay for pedigree for us to share. For me now, I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. E va così stasera, eh? Ancora dalle coste, questa volta di Boston, la città più irlandese degli Stati Uniti. Anzi, dalle coste dell'Irlanda, la città più irlandese degli Stati Uniti, Boston. Vabbè, invertendo l'ordine degli addetti, la somma non cambia. Addetti, te lo ricordai? Perché a Dandy, infatti, a Dandy, no, sì. Manca Daddy. A Dandy pure, sì. Alle 00:40 Radio Onda Rossa. Come? Oi, oi, oi, oi. Come again, quindi Dropkick Murphys. That's No Works. Non partiva. Oh, grazie Ciccio, a proposito. E ci abbiamo riprovato a creare qualche atmosfera di quelle che si sentivano qua a Radio Onda Rossa, con dei personaggi e delle personaggi molto più forti e bravi di noi e brave. Era il tempo di Cetamon. Quando questi e altri suoni e queste e altre parole riempivano l'etere di Roma e del Lazio, in quanto lo streaming ancora non c'era. Un abbraccio a tutti loro e a tutte loro. Come si chiamano queste citazioni e omaggi? E ricordate mercoledì prossimo al Forte Prenestino The Atlantics. Aprono Romanez e Magneti. Eh sì, in piena area Cetamon. Questi sono proprio i suoni dell'epoca. Pogis. A un certo punto nei Pogis entrò pure Joe Strummer per una brevissima parentesi della sua esperienza di vita e musicale. Comunque De Bira ne bevevano assai. The Birmingham Six. Torture the innocent wrong the accused. For a price of promotion and justice to throw. May the judge be the judges when they write down his hell. You'll be counting years for 5 and 10. Growing old in a lonely hell. Round the yard in a lousy soul. From wall to wall and back again. Questa più o meno la facciamo finita con il filone celtico irlandese. Loro sono una band fichissima. Si chiamano Blood or Whiskey. Stuck Together da capo. Anche se non era la traccia questa che volevamo mettere, l'abbiamo pure rimessa da capo. Ma sì, perché 25 O'Clock è una trasmissione alla buona, quando ci si mette. E soprattutto quando i suoni lo consentono. Quando si sente che l'atmosfera diventa familiare. Anche se poi della famiglia. intesa in quel senso là, insomma. Non è che proprio abbiamo una bella opinione. Forse ci piace proprio più l'avverbio familiare. Ed era questo invece che volevamo ascoltare. Anche perché non è vero che avevamo finito, eh? Con le atmosfere celtiche e irlandesi. Perché proprio in Irlanda poi ci sposteremo. Con una delle capostipiti di tutti quanti di quello che fu il folk rock degli anni 60 e 70, poi soprattutto. Intanto questa è un Requiem for a King. Anche se i re ci piacciono senza vestiti, nudi. Come il potere e il dominio, che mostra finalmente quello che è il suo vero volto. Eh sì, magari è roba vecchia che non vi piace. Magari delle vecchie passioni di quando si era Pischelli. Veramente. Non corrispondono più, magari, quelli che sono i gusti, i sentimenti, il piacere dell'ascoltare musica dei Pischelli e delle Pischelle di adesso. Però mi dovete perdonare almeno una o due volte all'anno. Un Alexandra Helen McLean Denny. La devo mandare una di quelle voci che ti fa scorrere un brivido lungo la schiena e non c'è modo di cacciarlo. Una di quelle voci che sembra che di aver finito la vocale ultima che sta pronunciando e invece la cambia, la intensifica. Ne modifica il timbro, il tono. Questo dopo o durante i Farpon Convention, forse dopo, poi ne uscì. È il disco del 1971, Sandy Denny. The North Star, Grassman and Ravens. Go home, go home to your father's God. Go home and weep your fill. Blackwater Side. And think upon your own misfortune. Would you? Questo è invece Baka Beyond, un progetto che seguimmo. Per un po' di tempo negli anni 90 e poi a cavallo del 2000. tre o quattro lavori, poi l'abbiamo un po' persi di vista. Si tratta in realtà di Martin Craddick, che è un po' l'animatore di questo progetto, di questo collettivo. Lui è un inglese, e quindi un'unione di suoni, appunto, della tradizione celtica delle isole britanniche mischiata ai suoni africani. Beh, ci siamo dopo Quotu di Baka Beyond, lavoro del 1998, abbastanza visionario, pensiamo noi, nei riguardi proprio delle possibili evoluzioni delle contaminazioni. programmazione in diretta di Radio Onda Rossa finisce in questo momento, fra pochi istanti. Vi ricordiamo soltanto brevemente, prima di andar via, gli appuntamenti importanti per domani, giovedì, anzi per oggi ormai, giovedì 27 giugno. Quindi alle ore 9, Piazzale Clodio, presidio per il primo processo, il primo appello del processo per il 15 ottobre per devastazione e saccheggio. Un abominio di reato estratto dal codice Rocco e che ora ritorna in grande spolvero e lustro proprio per reprimere in funzione di repressione delle lotte sociali. E lotte sociali forse è anche un termine troppo, appunto, sociologico, troppo impegnativo. Si tratta semplicemente di un fluido vitale che scorre dove c'è gente, dove ci stanno persone, animali che vivono, che hanno bisogno di spazi, di libertà. Perché la vita ha un andamento esplosivo, succede così, non può essere imprigionata, imbrigliata. Eppure gli strumenti di repressione e di canalizzazione delle esigenze vitali, delle energie di tutte le persone vengono sempre più sottoposte a stress e repressioni, a gabbie e canali. Viene ucciso il desiderio e la creatività, tutto a fine di una produzione fine a se stessa, inutile e dannosa. E noi rubiamo questo tempo di 25 o'clock, della 25esima ora, proprio ai ritmi del consumo e della produzione. Quindi domattina alle ore 9, Piazzale Clodio, e alle ore 17 per il presidio, appunto, in solidarietà dei compagni e delle compagne accusate di devastazione e saccheggio per i fatti del 15 ottobre, e alle ore 17 assemblea, altra assemblea in quel di Valle Fiorita, quartiere Torre Vecchia, e poi la sera Scarceranda al Forte Prenestino. Mercoledì prossimo io non ci sarò sicuramente, il fantasma probabilmente si farà in due, in quattro, non sappiamo, tanto lui c'ha il dono dell'ubiquità, gli pesa poco. Quindi 25 o'clock non si sa che tipo di andamento, che tipo di conformazione avrà mercoledì prossimo, però ci siamo. E soprattutto ci staranno gli Atlantics al Forte Prenestino per Fagiolino, Malina, Jimmy. E ricordiamo anche Ines in quel della Sicilia, ai domiciliari. Compagni e compagne, appunto, che pagano ancora lo scotto, il prezzo per la repressione andata in atto, andata in opera nel lontano luglio del 2001, 12 anni fa. condannati a molti, molti anni di reclusione. Li dobbiamo tirar fuori di lì. Allora, programmazione di Radio Onda Rossa che riprende domani mattina, quindi lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa, aggiornamenti per quanto concerne ciò che accade dalla città e dal resto del mondo, GR dell'ora di pranzo, spazio comunicazione visionari e poi via via tutto il palinsesto della radio. Noi ci andiamo così, mercoledì appunto 25 o'clock, e poi tornerò pure io fra 15 giorni, dai. E chissà cosa ci inventeremo per quest'estate, poi che verrà. Sotto la luna comunista.